Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. I primi tentativi di realizzare un cuore artificiale sono dei primi anni 50. Poi nel 67 arrivò il trapianto di cuore e da allora la tecnica dei trapianti ha fatto passare in secondo piano la ricerca sugli organi artificiali, che comunque non si è mai fermata. Infatti un buon organo artificiale sarebbe in linea di massima preferibile al trapianto di un organo proveniente da un altro donatore, perché come è ben noto questo comporta non pochi problemi di biocompatibilità e anche rischi di rigetto. Il grande traguardo sarebbe poi mettere a punto organi artificiali biologici fatti con le stesse cellule della persona che riceve il trapianto. E qui una tecnologia molto promettente sembra essere l'ormai onnipresente stampa 3D. Ne parliamo con Carlo Alberto Redi, che è biologo e direttore del laboratorio di biologia dello sviluppo dell'Università di Pavia ed è anche insomma noto saggista e divulgatore scientifico. Buonasera Redi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Come lei ha detto, l'ideale è avere un organo compatibile sotto il profilo immunologico esattamente per il paziente. E questo si può fare in teoria partendo dalle cellule staminali del paziente, moltiplicandole, differenziandole nel tipo. Quindi prima si prelevano queste cellule, si mettono in un brodino dove loro si moltiplicano, ma sono ancora cellule indifferenziate. Diciamo, ecco, va precisato che si prelevano, bisognerà decidere come e dove. Certo. Diciamo di partire da cellule della pelle, vengono messe in brodi di coltura, come lei ricordava, vengono portate a un livello staminale, cioè cellule che continuano a moltiplicarsi, a quel punto si cambiano questi terreni e si differenziano se serve il cuore in cardiomiociti, se serve il fegato in epatociti e così via. Però attenzione, questo è un quadro teorico. Certo. Noi stiamo facendo piccoli passi in avanti sugli animali modello. Questa è una cosa importante. Sì, l'organo, il tessuto riusciamo a farlo, riusciamo a fare cellule differenziate e si fanno tante terapie cellulari per medicina già oggi. Certo. L'organo è ben più complesso, infatti. Bisogna ricostituire la struttura. Ci sono anche tanti tipi cellulari diversi, certo, che devono essere assemblati. Si pensa un organo esattamente come dice lei, bisogna pensare all'architettura di diversi tipi cellulari che stanno insieme. Oggi questo è importante precisarlo, di organi di questo tipo che sono l'ideale e che la scienza riuscirà, bisogna essere ottimisti, prima o poi a fare, ci vorranno 20 anni, 30 anni, 40 anni, ma ci riusciremo. E ad oggi non c'è nulla. Sono soltanto organoidi e il termine esattamente si riferisce al nostro stato di avanzamento nel fare queste cose. Organoidi, cioè rende benissimo l'idea. Sì. L'ingegnere genetico che fa gli occhi e fa le parti sarà il futuro, non v'è dubbio. L'arte arriva sempre prima, ma oggi riusciamo a fare organoidi. Si badi bene, è una cosa importantissima. Cioè, noi riusciamo a fare organoidi del polmone, del cuore, del pancreas, cioè piccoli frammenti in vitro, in provetta, che funzionano come? Si capisce immediatamente che è un passo avanti importantissimo, certo. Ma con stampa 3D quello che riusciamo a stampare oggi effettivamente è l'orecchio esterno. È l'orecchio esterno, definirlo organo è un po' esagerato, però se ci pensiamo in alcuni casi è molto importante, non è solo un problema di chirurgia estetica. L'organo che, virgolette organo, che riusciamo a stampare bene caricando una stampante 3D con cellule staminali differenziate verso condrociti, cellule della pelle, eccetera, eccetera, è l'orecchio esterno. Questo è importante per gli ascoltatori. Un messaggio positivo, ci arriveremo. Ad oggi non cadete nelle truffe. Senta, Redi, prevedibilmente quali saranno le prime applicazioni? Probabilmente non saranno degli organi, saranno dei tessuti che forse non verranno neanche impiantati, verranno usati per altri scopi. Quali potrebbero essere? Beh, questo che lei sta sottolineando è di grande rilievo. L'esigenza di impiegare staminali è esattamente più forte oggi, come lei ha indicato, cioè poter saggiare una molecola se ha un effetto farmacologico. Si capisce bene che nel giro di un paio d'anni, un anno, raggiungo il risultato di sapere se quella molecola funziona come medicina. Sul tessuto target, no? Sul tessuto che dovrebbe andare, sul quale dovrebbe andare ad agire. Esatto, senza dover reclutare pazienti, spendere soldi, avere anni davanti per convincere che funziona senza essere dannosa. E si lavora molto bene, si sta andando molto bene. Abbiamo organoidi, è una cosa di grandissimo rilievo. Ecco, insomma, si può dire che comunque questa tecnologia, la stampa 3D, forse ha veramente avvicinato la prospettiva di avere organi artificiali, perché c'è stata una ricerca che va avanti da 60 anni con risultati finora molto scarsi, oggettivamente. Sì, e questa è una tecnica che viene dalle tecnologie convergenti. Noi stiamo vivendo un'era di tecnologie convergenti. Nessuno poteva immaginare, neanche nella fantascienza, che un biologo potesse usare la tecnologia della stampa tridimensionale sostituendo l'inchiostro con delle cellule. È fantastico. È fantastico. Va bene, grazie, grazie Carlo Alberto Redi. Grazie a lei e agli ascoltatori. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.